volta nella pasta vedo cose incredibili, come il mega biscottone in zupposso. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dopo il semaforo una gran partenza, parte alla grandissima Lorenzo Marquez, si ostacola per la verità con una Suzuki mentre Valentino Rossi cerca di rimontare. Non è così facile, era un po' illusorio pensare, certo uno pensa a Rossi, pensa ai miracoli, ma i miracoli non sempre possono riuscire. Questa è la MotoGP, questa è la moto. Arriva Valentino Rossi. Bravo, l'applauso, bravo Vale. Bravo, perché è stato bravo, in testa, in testa al mondiale dalla prima all'ultima gara. Già dalle dichiarazioni di Marquez, no? da venerdì, da sabato, dove diceva che avrebbe fatto di tutto per battere Lorenzo, lì ho avuto la conferma che avrebbero fatto il biscottone, ecco. Noi l'abbiamo, in questi giorni l'abbiamo chiamato il biscottone, perché è un po' quello che fanno le squadre di calcio quando non devono, no? Non devono, alla fine della stagione non devono andare in Serie B, allora si mettono d'accordo e fanno il pareggio, no? Secondo me ha goduto che io l'ho visto, perché lo ha fatto talmente chiaramente che ha trovato felicità anche in questo. Abbiamo 9,3 milioni di opinioni. Almeno, perché 9,3 milioni sono gli italiani che ieri hanno visto, per uno share del 46%, che hanno visto quello che per la Gazzetta è appunto il biscottone, come dice Rossi, per Corriere della Sera moto truffa, per Repubblica prima pagina la rimonta del complotto furia di Valentino. La farsa di ieri secondo me è stata anche più oscena e più volgare di quella di Sepang. Questa è una mia idea. Il sorriso da Joker, come lo chiama Giorgio Terruzzi, del bimbo minchia spagnolo. Fenomeno, per carità, ma non ci canterà mai più quel sorriso. Ieri c'erano i 30.000 di Tavuglia, ma quella per il paese, per l'Italia, si sono accesi anche dei fuochi di festa per la sconfitta di Valentino, che divide, è tutto legittimo e tutto perfino sano, secondo me. Io difenderò sempre il diritto al gufeggio, e proprio per questo dico che per i prossimi 12-15 anni saprò contro chi tifare. Zero dubbi in proposito, soprattutto dopo quelle parole di Jorge Lorenzo, campione del mondo. È la verità che ho fatto una gara di dare il massimo sempre, però sinceramente oggi le onde magari nel lato destro del pneumatico l'avevano meglio, e sicuramente questo che ho esplicato, che loro sono spagnoli come me e sapevano lo che mi giocava, mi ha beneficiato, perché magari senza quella piccola aiuta, magari Valentino, che ha fatto una grande gara rimontando dall'ultimo al quarto, mi poteva quitare il campionato. Allora questo titolo è mio, è nostro, ma anche di Spagna. Io sono ancora incazzato nero, quindi magari non propriamente lucido. Carlo Pernat, navigante di tutti i mari del moto mondiale, primo manager di Valentino, magari riesce a darmi un giudizio più lucido e non dettato dalla rabbia che mi porto dentro. No, ma guarda, la lucidità bisogna sempre averla, ma secondo me la maggior parte della gente è lucida. Poi sai, qualcuno chiaramente può non pensarla come la maggior parte la pensa, soprattutto per quello che ha visto. Uh-huh. Io guarda, stamattina parto da un piccolo esempio. Ho fatto colazione con Will Gardner, ricordate? Sì, come no, Will Gardner, australiano, no? Poi oltretutto di quelli tosti, no? Visto quelli che c'era una gara, quelli che battagliavano Will Gardner. Bravissimo, ha vinto una gara di Stan Strick nel 90 in Australia, che sembrava che andasse sul toro scatenato, non sulla moto, sì, per dire la forza che lui aveva, no? E lui mi ha detto, guarda Carlo, lo traduco così, la parola giusta che mi ha detto è disgusting. Tradurlo in italiano è molto difficile, perché è facile a seconda dell'impronta che gli vuoi dare. Mi ha detto, io nella mia vita, e lui ne ha corse di gare, è un'esperienza esagerata, non ho mai visto un pilota correre contro un altro pilota come ha fatto Marquez, in tutti i modi, a partire dalla Malesia. Allora io parto da questo e dico, un pilota di quel genere, ed è un pilota e lo rispetto, perché sai, a volte noi giudichiamo senza essere piloti, anche se abbiamo esperienza. Un pilota in pista, e secondo me ha sensibilità maggiore di quella che abbiamo noi. Sì. Per dirlo, altri piloti come Vettel, cioè, stanno parlando i piloti, non è che stanno parlando della gente di un altro tipo, un giornalista, un opinionista, un manager anche come me, seppur con 36 anni di questo mondo. Io dico che in Malesia è stata una vergogna vedere un pilota fare 6 giri in quel modo contro un altro pilota senza giocare di niente. Sì. Oltretutto, ti dirò di più, e prima di parlare dell'ultima gara qui a Valencia, dico che ci sono, e forse l'abbiamo detto l'altra volta, delle regole non scritte che sono molto più importanti di quelle scritte. Certo. E sono le regole fra piloti. Io ti posso garantire che questo, quello che ha fatto Marquez contro Valentina Sepang, ha messo i piloti, io ho parlato con tanti piloti, soprattutto anche giovani, non solo quelli bravi, sì, e tutti hanno perso tantissimo rispetto per Marquez. Lo avevano, e ti dico la verità. Ma sì, ma tutti, cioè, Carlo, esatto, nessuno discute il fatto che sia un fenomeno. L'ammirazione come per il Marquez pilota, che è rivoluzionario, non può finire. Certamente. Il rispetto che puoi avere invece, diciamolo, per il Marc Marquez uomo, beh, allora quello lì è finito, è caduto tutto. Ma ti dico, non solo dagli esterni, tra virgolette esterni, nel senso di gente che magari vede pochi Gran Premio, li vede in televisione, ma proprio di noi addetti al settore, abbiamo perso quasi tutti rispetto per come corre, per quello che ha fatto questo ragazzo di 22 anni, che francamente, io sai, quando Valentino ha fatto tutto questo discorso e ha detto tutte queste cose, sai, un po' di freno a mano lo tiravo, perché sai, quando si combattono in due usano delle armi delle volte anche un po' psicologiche. Certo. Cavolo, Valentino ci ha visto veramente bene, anzi, parlando con lui, ti dirò di più, lui forse non era convinto al 90%, io gli ho detto, guarda che, ora dico una parola un po' forte, guarda che Marquez in Australia finirà il suo, tra virgolette, sporco lavoro. Certo, certo. E lo sporco, se tu hai, ieri ha finito mano, il suo lavoro, ieri nel modo più subdolo ha finito, bravissimo, il suo sporco lavoro ieri. Bravissimo. Ma in maniera evidente. Ti dirò di più. E gli ho detto, vale, ma guarda che quando uno c'ha una, tu sei moribondo, c'ha una pistola, vuoi che non ti spari e ti finisca, sapendo che se guarisci il prossimo anno ti spara lui. Ma è normale, cioè è normale, non è normale, ma è logico. E questo è successo, ed è successo nel modo più allucinante che io potessi vedere, cioè 30 giri senza fare un attacco. Certo, 30 giri senza fare un attacco, e quando è arrivato Pedrosa, perché i due andavano a spasso, è stata la gara più facile. È stata, certo, la gara più facile della carriera di Jorge Lorenzo. Cioè, tutti eravamo lì a dire: ma la tenuta mentale Lorenzo non è solidissima. È stata una passeggiata pomeridiana. Lui aveva praticamente il bodyguard. Sì, aveva il bodyguard. Il bodyguard, io l'ho chiamato la gara del bodyguard. E quando Pedrosa, che con le gomme, essendo lui molto più leggero, alla fine le gomme si erano consumate di meno, lui andava a vincere, non dico tranquillamente, che non si vince mai tranquillamente, sì, ma ti posso garantire che Pedrosa vinceva. Sì, certo, ma la paura di Marquez qual è stata? Stai lì, fai il bravo, non ti muovere, non andare a rompere i coglioni, non fargli battaglia, certo, perché chissà cosa può succedere. Bravissimo, è la gomitatina, perché in quel punto lì, se vinceva Pedrosa e lui faceva terzo, finivano a pari punti e vinceva lo stesso mondiale Lorenzo. Sì. E lui poteva essere accusato di non aver tentato di giocarci secondo il posto, invece così è stato bravissimo, ha fatto bodyguard, comitatina l'altro, solo che la gente si è stufata, ed è stato bellissimo quando in diretta Valentino, non l'avete visto poi a Sky con le immagini, quando gli ha detto, te l'avevo detto Carmelo che faceva uno sporco gioco, hai visto, vedi che avevo ragione, andiamo nel camper a parlare. E bellissima, a Carmelo e Speleta, cioè il signor Dorna, bellissima. Carlo, ti chiedo bellissima un attimo di pazienza per il traffico, poi facciamo altre due chiacchiere anche con i tantissimi ascoltatori che ci sono in linea, 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Cosa ti avevo detto Carmelo? Te l'avevo detto giovedì o no? Te l'avevo detto giovedì o no? Carmelo, così non va. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. logicamente non mi piace che la gente adesso è in contra, ma alla fine per un pilota dire che aiuta un altro che non è compagno di squadra, niente, che dice che lavora per l'altro, questo per un pilota come me è una falta di rispetto, ma alla fine vediamo, proviamo di fare il nostro 100%, comunque proviamo di lavorare il prossimo anno a lottare per il campionato. Questo era Marquez, ma il soggetto credo sia Lorenzo, no? Carlo Pernat. Sì, ma guarda, io ti dico anche, io spendo anche una parola a favore di Lorenzo. Lorenzo, diciamo, da un punto di vista sportivo, quando in pista, è un pilota molto corretto, non ha mai fatto una scorrettezza Lorenzo, o ne ha fatte tante quante ne può fare Valentino. Sì, certo. Cioè, quando ti giochi un mondiale, capisci? Combattente. Bravissimo. L'unica cosa che dovrebbe ogni tanto far funzionare il cervello, che è un occhio, perché quando fa certe dichiarazioni come dopo la Malesia, poverino, si squalifica da solo da un punto di vista immagine, e per quello anche che è fischiato, che non è molto amato, perché dice delle cose che non sanno né in cielo né in terra. Sì, sì. E oltretutto è stato molto ingenuo qua, perché ti dico la verità, secondo me non c'era nessun complotto, nel senso che... Ingenuità o calcolata furbizia, secondo te? No, ingenuità, perché lui è ingenuo, credimi, non è furbo, se no non dichiarava che lui aveva perso rispetto di Valentino, che la gente ha perso rispetto, cioè vuole essere ingenuo, non essere furbo, la furbizia è un'altra cosa, secondo me. E lui non ha fatto nessun accordo, credimi, non c'era un complotto fra loro due, secondo me no, lui si è trovato ad essere aiutato senza che lui lo sapesse, lo sperava, sì, ma non ha fatto nessun accordo, per cui non è che voglio dire, io la colpa do solo a Marquez, cioè, Lorenzo ha fatto il suo mestiere, sì, ha fatto le sue corse, non zero. Però poi la missione ce l'avrei fatta senza il loro aiuto, viva la Spagna, allora... Ti dico che è poco furba, praticamente lui ha fatto capire che se non c'erano gli altri che gli davano una mano probabilmente non vinceva, ma come si fa a dichiarare queste cose? Quando ti dico che è un optional di cervello mi sembra di non dire una cosa tanto sbagliata, no, con queste dichiarazioni. Infatti subito appena hanno visto quelle dichiarazioni ho detto ma come? Allora Young mi ha messo anche tu che ti hai dato una mano, ma in effetti alla fine gliel'hanno data, lui magari non lo sapeva, l'ha accettata, non è mica scemo, però sai cos'è Lorenzo? Sa che il prossimo anno c'è della partita, Marquez gliela fa anche a lui. Ma sì, perché Marquez se ne frega di tutto. Se ne frega l'importante, ma per Marquez l'importante è che non vincesse il re, perché sennò lui veniva messo in ombra. È un discorso di invidia, certo, di bassa, certo, invidia, di gelosia. Cioè, tutti, ma non lui, perché io sono l'astro nascente. Io adesso sono il moto mondiale. Quello lì è il vecchio che non deve tornare. È quello. Guarda, che riempie la dorna di soldi. Riempie la dorna di soldi. È quello che fa girare il volano. È quello tenuto in palmo da tutti. Hai capito? Guarda, ti dico, ma ti do ragione, era forse ancora questo discorso, dice che stamattina parlando con Garner mi ha detto soprattutto ha fatto una cosa contro one legend, cioè, ha fatto una cosa contro una leggenda, perché veramente è una leggenda vivente. Ma la nuova leggenda vuole essere lui, è questo il punto. Ma sì, vuole essere lui, essere lui. Sai cosa lo sarà quando? Quando tanti comincerà a cambiare una marca per vincere come ha fatto Valentino. Valentino ha vinto con tutte le moto, questo ha vinto solo con la Honda, punto. Quindi cambierà magari Andrea Yamaha che vincerà, ti dico, beh, incominci a pensare che sei veramente forte, che sei anche te parte di una leggenda che devi ancora costruire. E quindi, guarda, lasciamo perdere. Io credo di essere abbastanza obiettivo nella mia vita, in 36, sono ancora qua a 36 anni, vuol dire che un po' di obiettività forse l'ho avuta. Io una cosa del genere, una cosa del genere non l'ho mai vista, e mi meraviglia ancora che c'è ancora qualcuno, qualche spagnolo evidente, che ci mancherebbe altro, ma in Italia che qualcuno, pochi, che pensano che non abbia fatto niente, mi scappa veramente da ridere, ragazzi. Vabbè, c'è anche chi creda alle fatine, c'è chi crede a Biancaneve, ma Babbo Natale, sì, ognuno è libero di credere, quello che vuole, insomma. Assolutamente, questi sono fatti, l'opinione di tutti. Certo. Assolutamente. Carlo, grazie. Però sai, grazie a voi, ragazzi. Grazie, un abbraccio, Carlo Pernat. Ascoltatori, Davide da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io avrei voluto approfittare ancora di Carlo Pernat, perché avrei voluto, diciamo, proporre un argomento che sì, mi sembra che lui non la pensi così, da quello che ho sentito. Ma potrebbe esserci dietro una regia, forse addirittura della Honda, l'anno prossimo un Lorenzo in Honda insieme a Marquez, e Pedrosa invece no? No, diciamo, pare in modo, Pedrosa, in modo che la Honda Pedrosa ha contratto. in modo che la Honda possa correre col campione del mondo, non so. Non lo, guardi, questa forse è dietrologia. Pedrosa ha al contratto. Un argomento interessante sta invece nel fatto, anzi ce ne sono due, ma potrà Valentino l'anno prossimo correre insieme a Lorenzo? Secondo me no, impossibile. Possiamo alzare tutti i muri che vogliamo dentro quel box, il muro di Berlino, la muraglia cinese, ma non possono più correre insieme. Il secondo punto è che la Honda, anche come marchio, e questo è un argomento interessante, ma magari da approfondire in altre sedi più economiche, commerciali, ma la Honda esce distrutta da questa situazione. Distrutta come l'immagine di molti della Honda, e mi spiace pure di Livio Supo che ieri a domanda non ha risposto. Ciao, e se n'è andato via. Francesco da Trento, buongiorno. Buongiorno, io non credo alle fatine, però mi piacerebbe toccare qualche argomento. Innanzitutto, il signor Pernat ha detto che Marquez deve vincere con un'altra marca perché Valentino ha vinto con tutte. Valentino si è fatto ricoprire di soldi per andare in una marca italiana e non Ducati, ha vinto. Non ha vinto, non era moto per lui. Ma sicuramente, però, per essere precisi e prima di accusare gli altri o altro, guardiamoci bene a fondo nelle cose. Io non ho mai capito perché nessuno mi ha spiegato come mai Marquez a Phillip Island ha portato via la vittoria a Lorenzo. Non credo al discorso, perché sennò sarebbe stato troppo evidente l'aiuto, e tutti gli addetti ai lavori, da riviste specializzate, grandi esperti, l'hanno definita la gara più bella dell'anno e hanno dato a Marquez 10 lode in pagella. La mia opinione è che Marquez avesse diritto a lottare anche per il terzo posto con Valentino, perché lui secondo me è uno che quando si trova in bagarre la fa con tutti e non guarda in faccia a nessuno. Ieri io no, simpatizzo per lui. Mi correggo, fino alla penultima gara. Uh-huh. Secondo me, se Valentino in conferenza stampa non avesse detto Marquez aiuta, Marquez è un bambino, è molto immaturo, e ha semplicemente reagito come dire: ha semplicemente ti mostro fatto, io come corro se voglio farti perdere. Quello, ha fatto quello ha fatto quello che Valentino aveva dichiarato. Cioè, infatti, sì, tutti oggi notiamo come avesse letto precisamente, anticipato in maniera precisa le intenzioni di Marquez, che sono diventate a quel punto palesi. Possiamo dire: se è arrabbiato per quelle dichiarazioni, allora l'ha fatto davvero. Oppure possiamo dire: il piano era quello e Valentino l'aveva denunciato tentando di metterlo scoperto, e comunque lui l'ha fatto davvero. Max da Lodi, poi ci fermiamo un attimo, poi continuiamo a parlarne. Abbiamo altri ospiti sull'argomento. Dopo il GR, invece, ampia pagina calcistica, mi raggiungerà Pardo. Abbiamo altri ospiti, grandi ospiti anche lì. Max Lodi, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie dell'invito. Dica. Io volevo un po' controcorrente. E se tutto fosse dettato dalla Dorna, visto che quest'anno Moto3 non ha vinto niente gli spagnoli, Moto2 non ha vinto niente gli spagnoli per interessi commerciali, dovevano per forza vincere un mondiale, punto di domanda. Max, tendo ad escluderlo. Sì. Tendo ad escluderlo perché questa situazione per la Dorna è stata un cataclisma. Lo stesso ricordo quanto scritto dal País, principale quotidiano spagnolo, in settimana. Valentino Rossi è la gallina delle uova d'oro della Dorna, è quello che fa girare l'intero meccanismo dal punto di vista economico. Quindi credo che per la Dorna il decimo titolo di Rossi sarebbe stato una benedizione, al di là delle questioni campanilistiche. Quindi io la leggo in questo modo, ma poi ne riparliamo. Borsa. E come no, è diventato come un po' il cross delle nazioni, no? O la vecchia 200.000 che si faceva a Imola con le nazioni divise, ecco. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Convocati. Partiamo, andiamo, è la chimica degli elementi, è la scienza, bellezza, si procede per esperimenti. Rossi c'è e vince davanti ad Andrea. podio, storica, storica. Abbiamo vissuto una leggenda, una doppia leggenda. Questo è un grande giorno da vivere. Sono le ultime curve ormai per un Rossi straordinario in una rimonta su Marquez, che ha tenuto, devo dire, l'osso in bocca fino al penultimo giro, quando questo contatto con Rossi ha fatto sì che saltasse via. Rossi c'è e va a vincere. Rossi c'è, Rossi c'è. Marquez è uno che gioca sempre tutto per tutto, all in, e subito nella prima curva mi ha dato una sportellata, boom, così. Poi io ho accelerato e dopo qualche metro ho sentito che mi ha toccato un'altra volta, ma non avevo capito che era caduto, e mi dispiace molto perché sarebbe stata una bella lotta, e spero che non si sia fatto male, però penso che abbia sbagliato lui. Questo è un grande giorno da vivere. E vince Valentino Rossi, la sua 111esima vittoria. Non so come avrei dovuto fare, visto che lui mi ha buttato fuori, e dovevo forse non essere lì, dovevo forse essere due moto dietro, però purtroppo c'ero, sai, la sicurezza quando lotti con Marquez è che comunque una carenata la prendi. Ho agitato così tanto la lattina che attenzione, può scoppiare con la minima pressione, il posto è caldo, il pavimento è umido, non è il momento per un sentimento timido. Lo squalo, prendi a Rossi la preda, a cavallo delle reti per la vittoria di Rossi, numero 112, 112 sì, 112, 112 a parte. Senza limiti, senza fiato, tutto giusto, tutto sbagliato. Devo muovere, devo muovere. I due si trovano, cosa stanno facendo? A un millimetro. Caduta di Marquez. Ha rallentato Valentino, si è trovato Marquez vicino. È stata strana, Valentino ha aspettato Marquez, ha allargato la traiettoria e si sono toccati. Non ci voleva questo. Questo è un grande giorno da vivere. E così abbiamo rivissuto in modo sonoro, questo sonoro molto bello, grazie Paolo Corleone in regia, la stagione fino a Sepang, al suo epilogo. Ieri però, torno a ripeterlo e lo chiedo anche a Loris Reggiani, quello che abbiamo visto, che ringrazio per essere con noi. Grazie a voi, buona giornata. Ciao Loris, quello che ho visto ieri, almeno dal mio punto di vista, è stato anche peggio di quello che ho visto a Sepang, posso dirlo? Ah, non lo so, non lo so, faccio fatica a... Beh, comunque erano due piloti completamente diversi, uno al polo sud e uno al polo nord, forse era suo fratello e nessuno se ne è accorto. No, ma è stato peggiore dal punto di vista sportivo, è stato più volgare ancora quello che abbiamo visto ieri. Sì, è stata proprio la presa in giro finale. Sì. Dopo, io sono convinto che... A lui gli si è anche andata storta, a Marquez, perché sono convinto che lui volesse poi vincere la gara all'ultimo giro, volesse passarlo Lorenzo per smarcarsi, per poter dire: avete visto, una volta che fosse stato sicuro che Lorenzo fosse Rossi non diventasse campione del mondo, lui avrebbe vinto la sua gara e si sarebbe smarcato. Invece Pedrosa gli ha rovinato i piani, sì. e ha dovuto rintuzzare gli attacchi di Pedrosa più che attaccare Lorenzo. Certo, perché sennò altrimenti quell'altro, al quale fregava poco Pedrosa, è stato fuori grosso modo da questi giochi, andava a rompere la scatola a Lorenzo magari. Esatto. Ascolta, esatto, Valentino ha espiato le sue colpe, che c'erano a Valencia, con il massimo che poteva fare, gara magnifica ma marginale quella di Valentino Rossi, è stata una lunga pubblica umiliazione. Sì, diciamo che perlomeno per fortuna Pedrosa ci ha fatto un po' addrizzare i peli sulle braccia gli ultimi tre giri, ecco. Almeno quello ha provato a darci un pizzico di speranza che tutto si mettesse a posto, perché la giustizia è completamente diversa da quello che è successo in fondo. Ascolta, alla fine, ecco, non dico che Lorenzo non si sia meritato il mondiale, no, quest'anno se l'è meritato di più Valentino, e quindi e quello che ha vinto lui è un mondiale rubato, tutto qua. Rubato? Sì. Rubato. Mi spiega a molti ascoltatori che me lo chiedono, ma allora come mai è andato Marquez è andato a togliergli la vittoria in Australia a Lorenzo? Perché perché andare a guardare un po', analizzare un po' i tempi sia delle prove che della gara dell'Australia è abbastanza semplice vedere come Marquez in prova avesse un passo in assoluto molto superiore a quello di Lorenzo e a quello di tutti, addirittura di mezzo secondo al giro, quindi Lorenzo non aveva nessuna possibilità di vincere quella gara lì. Tanto vale mettersi d'accordo e dire va bene, la gara la vinci in ogni caso, però mi tieni indietro Valentino Rossi. Ha fatto di più Marquez in quella gara, ha tenuto dietro anche Iannone, perché senza lui nelle scatole Lorenzo, senza lui fra le scatole Lorenzo sarebbe arrivato quarto dietro a Iannone e a Rossi, perché che andavano decisamente più forti di lui da metà gara in poi. Quindi già lì c'era un patto scritto, non scritto, verbalizzato, non verbalizzato, questo magari non lo scopriremo mai. Io credo che questo patto Lorenzo l'abbia un po' trovato, confessato nel suo comportamento del dopo gara proprio lì a Phillip Island, con una felicità non normale per uno che aveva appena preso la paga all'ultima curva, ecco. Io non conosco nessuno, io no di sicuro, ma non conosco nessuno che sarebbe stato così felice di perdere 5 punti all'ultima curva se non fosse stato tutto già previsto, premeditato. E questa non è male, caro Loris, questa non è male. Il moto mondiale esce comunque distrutto, incapace di gestire questa situazione fin dall'inizio. Sì, gli sponsor scappano, veramente. Minacciano di farlo, il moto mondiale è a pezzi in questo momento. Sì, assolutamente, anche perché adesso rintuzzare gli attacchi di quelli che dei dietrologi che dicono anche nel moto mondiale è tutto combinato, fin dall'inizio gli sponsor decidono chi sarà, eccetera, eccetera, cose che io avevo sempre aberrato e comunque che mi avevano sempre visto rispondere abbastanza piccato, adesso anche se so che non sono vere diventa più difficile dire che non ci sono le combine, è tutto molto più difficile. Sì, il moto mondiale riesce distrutto a livello morale, secondo me non perderà a livello di tifoserie, anzi sai quando ci sono queste cose poi di solito c'è l'effetto contrario sì, perché la gente vuole sempre vedere o il morto o l'incidente, non dico nel motociclismo però in generale, o le polemiche, succede i cazzotti, che si dice sì, le polemiche, tutte queste cose qui si attirano. Sì, io credo che però forse non hanno considerato bene, perché davvero se Rossi si schifa di questo sport e decide di smettere, forse poi si accorgeranno, insomma, si accorgeranno altro che, ma infatti che la grande preoccupazione non ne valeva la pena, ecco. La grande preoccupazione secondo me in questo momento è proprio quella, la grande preoccupazione di tutti, perché lui ha detto l'anno prossimo continuo, però l'ultima cosa, Rossi e Lorenzo non potranno mai più correre sotto lo stesso tetto, tu puoi mettere tutti i muri che vuoi. La seconda cosa, l'impressione che per Valentino questa fosse l'ultima chance per il decimo titolo, e poi c'è la Honda che esce, non solo il moto mondiale ma anche la Honda esce malissimo, queste tre considerazioni mi restano. Sì, anche perché se è vero che da una parte invece c'è la Yamaha che esce molto bene, nel senso che hanno preso una posizione netta e precisa a favore di uno dei loro, non a favore, contro a quello che poi è diventato il campione del mondo, che però si era permesso di fare delle cose, delle azioni che esulavano assolutamente da quello che era il suo diritto, dovere, certo. Eccetera, e si sono prese la loro responsabilità, perché si sono prese la responsabilità di dire ufficialmente il nostro pilota fa delle cose che noi non condividiamo e che assolutamente non dovrà fare più. La Honda al contrario è come un cagnolino, il contrario di quello che ha sempre fatto la Honda, come un cagnolino si è messo dietro al culo al sedere di Marquez a 90 gradi, dicendo sì, noi Marquez, in pratica hanno detto noi Marquez serve, quindi non ce ne guardiamo così, bene e ci appecoriamo, facciamo finta che sia vero e chiudiamoci gli occhi e andiamo avanti, insomma, e difendiamo la spada tratta. Da un certo punto di vista li capisco, però insomma, però la figura che hanno fatto mi sembra sotto gli occhi di tutti, poi andiamo a vedere quali conseguenze potrà avere. Lorenzo e Rossi correranno ancora insieme? Io non lo so, io non vorrei essere nei panni di Lynn Jarvis, questo è certo. hanno incontrato tutti e due, evidentemente alla Yamaha dovranno trovare il modo di farli stare insieme. È chiaro che daranno delle garanzie a entrambi che a questo punto il muro, oltre che essere come quello che c'era 3 anni fa, sarà anche virtuale, nel senso che nessuno potrà più vedere i dati di quell'altro. Cercheranno di dare delle garanzie molto forti, perché secondo me, davvero, come dicevi te prima, adesso come fanno a guardarsi in faccia quando entrano nel box? Diventa impossibile, comprensibilmente e umanamente. Poi sono professionisti, questo è vero, ma certe cose non le puoi superare semplicemente. L'ultima cosa, Loris, è stata l'ultima occasione per Valentino, secondo te? Riuscirà a ripetere una stagione? Secondo me Valentino l'ultima occasione l'aveva già utilizzata qualche anno fa, ecco, non doveva neanche essere questa l'ultima occasione per Valentino, secondo me era già bella che è andato. Valentino ci stupisce continuamente, mi ha stupito per l'ennesima volta quest'anno, e io incrocio le dita e spero che mi stupisca ancora per almeno altri 2 anni. Loris, grazie. Non ci grazie. Sa mai. Grazie, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Loris Reggiani. Traffico e poi Andrea, Loreno, Carlo, 800240024. Arriverà Pardo e poi dopo il GR, già prenotatevi se volete parlare di calcio, perché anche ieri sono state cose interessanti di cui parleremo dopo e nei prossimi giorni. 800240024 è il numero verde. Adesso io a costo di sembrare cattivo, però dico, in effetti, Marquez, che in Malesia fa una gara nella quale passa e ripassa 100 volte, e oggi che è sempre attaccato a Lorenzo e non ci prova nemmeno una volta, abbi pazienza, ma 2 sospetti me li fa venire. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Io non credo di trattare gli italiani che la pensano in maniera diversa da deficienti. Non mi permetterei mai, e anzi la differenza di opinioni, tutte ugualmente rispettabili e tutti con lo stesso diritto di cittadinanza, non sale di ogni tipo di discussione. Saluto il mio amico Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Bene, battaglia. Che succede? No, battaglia con gli ascoltatori, battaglia con i sostenitori di Valentino, i detrattori di Valentino, chi pensa che fosse un complotto, cosa che mi sembra abbastanza evidente, chi invece nega che lo sia, chi scrive basta difendere sto cazzo di Rossi. Il complotto c'è, poi si può discutere sul biscotto, fatto che si possa fare o no il complotto, nel senso che uno può anche decidere che, siccome gli sta più sulle palle Valentino di Lorenzo, si tramuta in gregario e fa quello che ha fatto, ma che sia avvenuto, dai, sembra abbastanza evidente, non credo ci siano discussioni su questo. No. Insomma, non sono un esperto di motori, ma al 7º-8º giro ieri ho twittato una roba, lo accompagnerà fino al traguardo. Sì. Era evidente che sarebbe stato un balletto, poi magari all'ultimo giro con una situazione diversa il sorpasso ci sarebbe stato anche come forma di... Sì, no, ma ha spiegato esattamente. Ha spiegato molto bene prima Loris Reggiani perché non c'è stato. Perché c'era Pedrosa lì dietro. Pedrosa me ne fregava grosso modo il giusto, cioè niente, di aiutare Lorenzo. E quindi l'ha messo a cuccia. Marquez con quella gomitatina, quel colpetto, come dire, non rompere le palle. E a quel punto, avendo Pedrosa lì dietro, ha fatto davvero lo scudo umano per scortare il nuovo campione del mondo, Jorge Lorenzo. Andrea Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione, che siete sempre veramente i numeri uno, e un saluto a Pierluigi. Ciao. Carlo, solo per capire una cosa, ma a parti invertite, cioè Valentino Rossi primo e alle sue spalle i suoi 2 scudieri della Ducati, ma pensiamo razionalmente che uno dei 2 ducatisti avrebbe tentato di passare Valentino? No, ma non è questo, non è questo. No, perdonami, discorso. Scusami un secondo. È il combinato disposto, come dicono i politici, di quello che è successo a Sepang e di quello che è successo a Valencia. Però siete d'accordo no, sul fatto che sia tutta e banalmente responsabilità del più grande campione che abbiamo mai avuto? Perché Valentino Rossi per me è questo. Certo che ha sbagliato. Ma che ha fatto una cavolata colossale a Sepang, basta. Mm? Cioè, chiudiamola qua, ha fatto una cavolata gigantesca e ne ha pagato tristemente le conseguenze. Fine. Sì. Sì, i dati, il dato è questo, il problema è come l'ha pagato tristemente fino alla fine, è quello che è successo a Sepang e quello che è successo ieri, che secondo me è ancora più disgustoso, a mio parere, perché... No, secondo me è la... A me, ripeto, da profano, la cosa che dà fastidio è aver visto Marquez fare quello che ha fatto a Sepang e un'altra persona, completamente un'altra persona, che invece fa l'agnellino ieri. Questo, il punto è soltanto questo. Poi io non entro nel merito e ti dico che fra l'altro secondo me Lorenzo alla lunga gli potrebbe anche un po' girare, gli potrebbero anche un po' girare le scatole, perché forse questo mondiale l'avrebbe comunque vinto, cioè la distanza non era incolmabile e forse lo meritava anche, eh. Io non possiamo nascondere il fatto che Valentino abbia fatto un campionato del mondo di conserva, di grande esperienza, e che nella seconda parte della stagione soprattutto fosse in difficoltà. Sì, sì. Lorenzo ha vinto più gare di lui, ha ragione quando dice che è stato in testa più di lui, cioè nessuno discute questo. E però lo spariglio di Sepang ha cambiato tutto. Certo. Perché vedere un terzo incomodo che si mette lì a rompere le scatole a uno dei due e che poi nella gara successiva invece si comporta in questo modo, beh, mi sembra... Poco elegante anche nei confronti di Lorenzo. Sì, Lorenzo, in questo Lorenzo ieri ha detto chiaramente: se quei due non mi aiutavano, io non vincevo il mondiale. Viva la Spagna! Cioè, certo. L'ha dichiarato proprio, ma assolutamente, quindi... proprio in maniera esplicita. E il discorso è questo. Lorenzo ieri ha fatto la corsa più tranquilla della sua carriera, è stata una scampagnata in moto in un bel pomeriggio di sole per poi Lorenzo. Ti dico pure che sicuramente l'abbiamo sottolineato varie volte dopo la gara di Sepang, Valentino nella sua storia ha avuto dei comportamenti che possono essere stati fastidiosi. No, ha avuto dei comportamenti, ma sempre in confronti diretti con chi si giocava il mondiale insieme a lui. Ecco, quindi questo, erano questo confronti diretti, no? Esatto. Quelli erano confronti diretti. Posso anche capire, anche quest'anno in Olanda c'è stato quell'episodio lì, in Argentina, insomma, posso anche capire che Marquez potesse avere fastidio, sì, no? O possa essersi sentito danneggiato da Valentino. Sì. Quindi io non faccio un discorso di natura moralistica. Io dico che dal punto di vista dello sport, così come l'abbiamo interpretato, questo qui è un biscotto. È un biscotto, è un tranello. Cioè, Marquez ha fatto il provocatore a Sepang e poi il cameriere, ripeto, con massimo rispetto per i camerieri, lo zerbino, scegliete voi l'espressione, in questa gara, ripeto, da un certo punto di vista, ci sono, basta capire le regole di ingaggio, ci sono manifestazioni, penso al Palio di Siena, è più importante che non vinca la contrada rivale quasi piuttosto che vinca la tua. È così, quindi al Palio di Siena le regole di ingaggio sono che fare come ha fatto Marquez è assolutamente accettabile ed è nello spirito della competizione. Nel MotoGP mi sembrava che le regole fossero diverse, che lo spirito fosse ed diverso, erano diverse anche perché c'è un codice non scritto, come ricordava Pernat, che è più importante di quello scritto, e cose così non sono tollerabili. Loreno, Firenze, pronto? Dica. Ciao Loreno. Ciao. Intanto saluto Fardo con salutate la polizia, certo, Forza Fiorentina. E ne parliamo subito dopo il GR. Riguardo a Rossi, diciamo tutta questa parte di tifoseria un po' all'italiana, come quando gioca la Juve si deve essere per la Juve. Non è così. Marquez è più giovane di Valentino, Valentino gli ha fatto vedere i sorci verdi, Valentino ha sbagliato, è già stato detto dal mio ascoltatore Andrea prima. Lui, Valentino, deve, è inutile che i giornalisti, tutta la stampa, televisione, vogliano sannare per forza questo decimo titolo di Valentino. Il decimo titolo Valentino se lo doveva guadagnare in pista, come ha sempre fatto. Ma siccome quando lui dava le sportellate agli altri, a Stoner, eccetera, lui è sempre stato avvantaggiato. Sì, con la differenza è che si davano le sportellate perché erano avversari diretti, in questo caso no. Poi Valentino ieri ha detto chiaramente, quando ho capito che non ero più uno contro l'altro, io contro Lorenzo, ma ho capito che erano due contro uno, e allora cosa ci volete fare? Ragazzi, ci fermiamo per il GR, torniamo subito con Pardo, ospiti... Cominceremo a parlare anche di calcio, state con noi. Abbiamo ancora Carlo per un'ultima domanda, se pazienza un secondo. Carletto. Ciao. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. convocati. Qui Nagatomo batte, Palacio prolunga sul secondo palo, sbuca Condogbia! Eccolo qui! Finalmente Condogbia! È il gol numero uno in Serie A per lui! Attenzione ancora all'inserimento di Cervinho, tutta la sfera di Cervinho in area del gol, Cervinho si allarga, rete, rete Cervinho, fa esplodere l'Olimpico con un gol favoloso, con un gol favoloso. If you say run, I'll run with you. Pogba viene servito, il 10 della Juve la mette dentro per Lichtsteiner, la parata di Skorupski e poi Mandzukic colpisce il palo, Dybala! L'arma letale della Juve, palo Dybala, quinto gol in campionato. Higuain al limite, entra in area, Higuain, fine fondo, Higuain, prova a girarla, palo e gol! Se l'ha inventato di nuovo, Gonzalo, il pipito, Higuain, da con in vantaggio. Attenzione a Kalinic, ancora per Ilicic, zona tiro. Kalinic sul passaggio di Ilicic, strepitosa Fiorentina, spettacolo vero. È 2-0 Marassi. È 2-0 Marassi. Così il film sonoro della giornata che hanno ascoltato anche Pierluigi Pardo e Beppe Bergomi, che ringrazio. Ciao Beppe. Ciao Carlo, ciao, ciao. Pier. Ciao, ciao zio. Come va? Ciao. A posto? Bene. Tutto a posto. Sì, sì. Tanto la meravigliosa Fiorentina di ieri a Genova oggi ha creato una situazione un po' surreale alla Sampdoria. La cronaca è questa: Zenga, approfittando di qualche giorno di vacanza del campionato, come sappiamo fermo per la sosta della nazionale, è andato a Dubai senza dirlo a nessuno. La società questa mattina lo ha cercato per un confronto che doveva essere in linea di massima una dichiarazione, una comunicazione di esonero. Non l'ha trovato e forse lo esonerà via mail. Queste le ultime, ragazzi. Come la vedi? Come la vedete, Pier? Beh, la vedo. Allora, la classifica non è male. Non mi sento di poter dire, cioè, se lavoriamo da un punto di vista cartesiano, numerico, è una classifica che secondo me corrisponde al valore della Samp. Poteva avere 2-3 punti in più, ma insomma non è un disastro. Credo sinceramente che dall'inizio della stagione però ci siano stati un po' di attriti, di incomprensioni, di scintille, quindi questo credo sia il problema fondamentale. Forse non c'è tutta questa fiducia, perché se no non è normale, cioè un esonero per una squadra che sta sul lato sinistro della classifica, che con tutto rispetto si chiama Sampdoria, quindi è una grandissima squadra, ma insomma abituata a fare un campionato da metà classifica, a sognare magari l'Europa, non certo lo scudetto. Beh, insomma, un esonero del genere avrebbe della follia. Non so quanto possa incidere su questo il malumore di Cassano, che ieri è venuto fuori in qualche maniera con quella frase a Giuseppe Rossi: come stai? Come stai, Cassano? E lui: un po' di merda. Merda. Senti, no, ha ragione Pier, non penso sia un problema di risultati, ma penso sia un problema di rapporti. Walter è uno spigoloso, quindi diventa difficile. E poi anche i rapporti interni, tu hai nominato Cassano, anche quello potrebbe essere un problemino, secondo me. Senti Beppe, noi abbiamo sempre considerato, io e Pierluigi, e rimaniamo grosso modo della stessa idea, Inter e Fiorentina come due eccellenti outsider. Io più l'Inter da Fiorentina in questo momento. Comincio, esatto. Mi serve che mi illumini lo zio sull'Inter. Perché allora, sull'Inter, se vuoi ti dico quello che penso io, che vedo da fuori. Allora, in questo momento Mancini non si fida completamente di tutta la sua rosa che ha a disposizione, tranne 3 o 4 imprescindibili: portiere, 2 difensori centrali e Medel. Il resto lui cambia in questo momento in funzione anche dell'avversario, ma soprattutto quello che vede in allenamento. E quindi lui vede in allenamento e ti butta dentro D'Ambrosio, ti butta dentro Nagatomo. Nagatomo, se pensiamo che era già sul mercato, ha rifiutato diverse volte. Ma non è piuttosto il contrario, che si fida molto della sua rosa, infatti ottiene eccellenti risposte da questi che erano nello sgabuzzino. Ma lui, perché io pensavo anch'io, una squadra che gioca solamente una volta a settimana farà il suo sistema di gioco e la gioca con tutti. Invece lui, non fidandosi in questo momento, non ha delle certezze, continua a cambiare. E in questo momento l'Inter la devi prendere così com'è. Non è bella, difficilmente sarà bella, penso anche in futuro, ma io penso che ha la rosa più profonda di tutti. Chi si può permettere di lasciare in panchina gli Aic, Perisic, Jovetic, squalificato Guarin, e va e vince a Torino mettendo in campo quella squadra? Secondo me le altre squadre non ce l'hanno. Più, qualche problema di gol con stante la condizione di Riccardi, e bisogna risolvere qualche problema. Problemi di gol, poi se comunque non ti segna nessuno e se Andanovic fa 5 parate a partita, alla fine il problema di gol è relativo. No, io sono molto curioso, nel senso che è evidente, la storia del calcio è piena di esempi nei quali abbiamo sottovalutato magari all'inizio delle squadre solo perché non erano belle e quindi non ci facevano emozionare più di tanto dal punto di vista estetico, ma erano estremamente efficaci, il famoso Milan di Capello, ma anche la Juve a un certo punto di Capello aveva quel tipo di caratteristica, una squadra che vince 1-0 e va bene così. E quindi è chiaro che qui ci può essere addirittura un margine di crescita per l'Inter. Da questo punto di vista l'Inter può diventare una forza spaventosa in questo campionato. Non lo so, ho qualche dubbio perché mi sembra che il Napoli abbia qualcosa in più comunque. Però Pier, l'occhio te lo prende il Napoli, te lo prende la Fiorentina, ma in dubbio li vedi giocare. Io ero a Poznan, ho visto giocare la Fiorentina, poi adesso la vedo ieri sera, cambia tutti i giocatori, ma mai hanno in testa il gioco dell'allenatore, che per me è la vera sorpresa, certo. Mentre Sarri, benissimo, sapevamo tutti come giocava, come faceva giocare le proprie squadre, la Fiorentina è impressionante. Io non ricordo una squadra che va su tutti i campi e riesce a dominare così, ti dico la verità, da tanto tempo. Sì, anch'io, infatti volevo dire, zio, forse è il caso di non considerarla più un outsider. Non so se potrà rimanere a questi livelli di eccellenza. Non si può dire niente della Fiorentina, squadra perfetta in questo momento. Riuscirà a rimanere a questi livelli di eccellenza fino a quando conterà? Io penso che se a gennaio è ancora lì, e penso che sarà lì, interviene sul mercato con un difensore e un esterno dico a destra, perché adesso ci ha giocato ieri benissimo Bernardeschi, a Poznan ha giocato a sinistra, ma deve fare tutta fascia. Se interviene in questi due ruoli, allora la Fiorentina la dobbiamo considerare assolutamente una delle candidate. Quanto alla Roma invece, sarebbe riduttivo considerare il derby di ieri soltanto alla luce di quel rigore che non c'era, di quel rigore fantasma. A proposito, mi fate sentire Garcia dopo, nel commento di quell'episodio? Se l'avessero fischiato contro un rigore così, cosa avrebbe detto? Ma che è una questione di millimetri, forse se il piede fa l'intervento, quello che non penso, è fuori, se è il ginocchio è sulla linea, e mi sembra che la linea fa parte, adesso non c'è contatto con i piedi, adesso con il ginocchio, possiamo dire di tutto, ma io preferisco parlare di fatti di gioco, di calcio, e non di episodi, perché non è cambiato nulla sulla vittoria della Roma, rigore o non rigore, era lo stesso. Però come sappiamo un anno fa era così. No, l'unica cosa che è un po' un peccato è che qui le grandi aree fanno 17 metri, è solo questo. A Torino faceva 17 metri, a Roma invece misura regolare. Sarebbe, no, ma dicevo, però ragazzi, solo per Garcia vale per tutti, infatti, sto ancora aspettando il primo che arriva lì e dice oggi ci è andata bene, oggi ci è andata bene, un'altra volta ieri è toccata a Garcia, ma insomma è abbastanza comune questa cosa, è chiaro, fa parte della mente umana, quando c'è l'episodio contro di te tendi a enfatizzarlo e quando invece è a tuo favore tendi magari anche a riconoscerlo ma a derubricarlo a così, a un episodio banale. Ieri ero seduto sul divano quando l'arbitro, tutti noi abbiamo detto rigore, cioè nel senso nessuno non ha soffermato il capito, anche vedendo la posizione dell'arbitro diventa difficile incolparlo. Ecco, io sto giro qua non andrei sui centimetri, ma andrei sulla sensazione che uno ha in diretta. La sensazione era quella del calcio di rigore. Sì, comunque non uno della Lazio questa roba, perché chiaramente è difficile che possa accettare una cosa del genere. Però sono d'accordo con te, anche però la stessa sensazione. Tra l'altro l'arbitro ha sbagliato da tutte e due le parti, perché poi in realtà dal punto di vista disciplinare sappiamo che sia Gentiletti che soprattutto Lulic hanno rischiato il rosso, quindi gli errori sono stati tanti, però è chiaro che diciamo che però alla fine la Roma ha legittimato questo, certo, questa mezz'ora. La Roma sta benissimo, però io ho un dubbio sulla Roma e anche qui mi affiderei alla io più di uno signor Bergomi. La capacità di mantenere il possesso palla e la gestione delle partite, perché io ho visto io non vedo una squadra che quando va in vantaggio, al di là delle amnesie dal punto di vista difensivo, non vedo proprio la capacità di mantenere, di conservare il possesso del pallone, di far correre a vuoto gli avversari. Anche ieri alla fine, secondo me, per come era morta e sepolta la partita, ha rischiato. Poi Matri non ha fatto il gol del 2-1, però insomma è questo il problema della Roma? È una squadra che ha molti individualisti, mi viene in mente Gervinho, Salah soprattutto. È una squadra che tante volte dietro concede molto, fa una difesa alta, tante volte inconcepibile, rischiando a palla scoperta. Guarda col Bayer Leverkusen, zio. Guarda col Bayer Leverkusen. Bravo. Ma avendo giocatori veloci, ti puoi anche abbassare. Questa squadra in questo momento si regge poi su dei. Perché si parla sempre della profondità di rosa della Roma. Invece, dietro 3 su 4 giocano sempre quelli e non hanno un sostituto. Parlo dei due difensori centrali di Digne. E poi, insomma, io penso sempre che questa squadra deve migliorare, come ha detto Pier, nel gestione, nei leggeri momenti della partita. E quando tu vedi giocare la Roma, non ti dà quella sicurezza che possa portare in porto un risultato. Mentre te lo dà la Fiorentina e te lo dà il Napoli. Sì, certamente. A proposito del Napoli, ieri c'è stato uno che finalmente ha pronunciato la parola magica. Uno, non uno a caso, il capogiocatore, Higuain. Sappiamo che facile non era, sappiamo che era una partita fondamentale, hanno vinto tutti e noi dobbiamo vincere, per fortuna lo abbiamo fatto, penso che meritiamo di più, abbiamo fatto tantissime occasioni, ma l'importante era vincere. Vincere titolo con il Napoli è lo che più felice mi farebbe a me, alla città e a tutti, no? Beppe Bergomi l'ha detto, non ha detto scudetto, ha detto titolo, che però se non è Zuppa bagnato, dicono dalle mie parti. Ieri Napoli ha sbagliato molto nel primo tempo sotto porta, anche Higuain pur giocando benissimo, con grande intensità. Certo che se le statistiche sono corrette e dicono che prendi nelle ultime 4 partite hai preso un tiro a partita nello specchio della porta, 4 tiri allo specchio della porta in tutto, compresa la paratona di Pepe Reina ieri sera, beh, stai andando bene, non c'è male. No, ma il Napoli difende bene, sicuramente difende bene, dire la squadra gioca un ottimo calcio. E poi se chi ha parlato prima sta in salute tutto l'anno, avere un centravanti così, ma quest'anno è diventato un fuoriclasse. Poi ha cominciato a dare disponibilità alla squadra, non ha allargato più le braccia, non ce l'aveva con i compagni, era sempre in sofferenza. Adesso è l'Higuain vero, perché il gol di ieri sera, ragazzi, è di una bellezza e di una difficoltà incredibile, e quelli sono gol da 3 punti, l'ha fatto anche a Chievo, un gol straordinario. Se mantiene lui la forma e sta bene fisicamente fino alla fine, avere quanti così, nel senso, la storia ci dice che poi centravanti dei 25 gol alla fine porti a casa le punte. Eh sì, soprattutto se il gol con la Juve, ragazzi, quello di ieri, ha sfiorato anche il secondo per pochi centimetri con quel pallonetto, no? Io son d'accordo, io penso sì, insomma, io ribadisco, è la mia favorita il Napoli, perché mi sembra che abbia una qualità alla fine di gioco talmente superiore a tutte le altre, e soprattutto che sia un progetto che sta lievitando, e devo dire la verità che da quando ho cominciato a pensare questa cosa qui non mi ha praticamente mai deluso. C'è stato il pareggio di Genova a Marazzi, c'è stato ma il è una partita ben Carpi. Giocata però ecco, sì. Se a parte Carpi forse, che fu veramente uno stallo, poi a Genova pure ho visto una squadra che andava più vicino a vincerla che a perderla. Ieri la vera notizia della partita di ieri è che il Napoli ha fallito tanti gol, cioè, la poteva chiudere prima, è stato anche bravissimo Carnet e ha concesso una mezza palla gol, anzi una palla gol vera con Reina calzato sulla traversa, però da palla inattiva, insomma, francamente a me sembra la più forte, però non è detto che la più forte o quella che in questo momento ti ruba l'occhio, come dice giustamente lo zio, cioè che ti diverte di più poi sia quella che arriva in fondo. Sì, poi... la vera domanda per me, il vero punto interrogativo, rimane l'Inter, perché l'Inter è bruttina ma tremendamente solida, e se cresce allora c'è anche lei, assolutamente. Sì, intanto Sarri ieri ha alzato di nuovo il dittino al capitolo Fischietti. Che il Napoli per avere un rigore gli debbano proprio fucilare in aria. Lei no. O si deve fare le maglie a righe. Ecco, beccala là, o si deve fare le maglie a righe. Adesso l'anno scorso tiro fuori quella polemica. Come, zio? Anche l'anno scorso a Empoli tiro fuori quella polemica delle maglie a righe. Vero, vero, forse vero. Ce l'ha. Vero, volevo vero. Fare come battuta, ma adesso che è del Napoli, insomma, io lo stimo e lo conosco bene Sarri, quindi deve limitarsi da questo punto di vista. Sì, ma poi, sai, insomma, è strategia comune, no? Tutti i grandi allenatori lo fanno. Ma è ancora fanno. Presto per queste strategie, dobbiamo andare nel girone di ritorno, febbraio-marzo, lì cominciano a scaldarsi i motori. Forse bisogna spiegarlo. Un'ultima cosa, zio, a proposito di quelli con la maglia a righe bianche e nere, non risolve nulla la Juventus, non ha risolto nulla dei suoi problemi, o comunque ne ha risolti pochissimi in questo... In questo periodo, però intanto vince, e questa è l'unica strada che deve seguire. Sì, deve andare avanti in Champions, deve dare continuità di risultati e, come dice Allegri, a vedere quando ci sarà la sosta di dicembre, di Natale, se avrà recuperato ancora qualche punto. Perché tanto io penso per lo scudetto difficile, perché abbiamo 3-4 squadre che viaggiano molto veloci e forti, e però c'è una Juventus fuori dalla Champions il prossimo anno, a meno che, insomma, gli auguriamo tutti di poterla vincere. Insomma, è dura, ecco, quindi penso che possa rientrare magari per lottare per il terzo posto. Testa bassa come Valentino Rossi ieri, una rimonta un po' disperata che però a Valentino non è riuscita. Ti è piaciuto? Cosa ne pensi? Come? Cosa ne pensi di Valentino Rossi, della storia di questo che hanno chiamato biscottone, moto truffa, due giorni ne parliamo. Ieri sera con Guido Meda, sì. Io penso che la denuncia di Valentino sia stata corretta, perché si vedeva, io non sono un esperto di moto, quindi però vedevo che in questi ultimi 3-4 Gran Premi, cioè, la Honda ne aveva nettamente di più di tutti e lui aspettava, non so, mi viene in mente quello che ha vinto, che nell'ultimo giro aveva 2 secondi di svantaggio, l'ha recuperato, è andato a vincere facendo l'elastico e facendo perdere punti a Valentino. Sì. Non so, non mi è piaciuto l'atteggiamento. Riconosco l'errore di Vale quando l'ha portato fuori, la squalifica mi è sembrata eccessiva, però il comportamento di Marquez l'ho visto veramente scorretto. Beh, ieri è stata l'apoteosi, secondo me. Sì. Peggio ancora che a Sepang, perché la gara di ieri è stata qualcosa di addirittura di volgare. Poi possono raccontarci quello che vogliono. Grazie, Beppe. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, Beppe. Tutti. Ciao, zio. Ciao, Pier. Abbiamo ancora 3 minuti per chiacchierare insieme. Gianni dalla provincia di Pavia è in linea, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Volevo parlare un po' male del mio Milan, non riesco a rassegnarmi al fatto che giochi così male. Non è difficile parlare male del Milan. No. Però vorrei avere una consulenza un po' da gente molto più esperta di me. Io e il mio amico litighiamo sempre su De Sciglio, secondo me è sopravvalutato, non lo so. Anche con l'Atalanta dopo 5 minuti rischiamo di prendere il gol perché si perde l'uomo, pensa ad altro. E poi non capisco anche perché Mihajlovic non mette dentro De Jong davanti alla difesa a coprire un po'. Poi tutto il resto, vabbè, lasciamo perdere, sennò dura troppo il mio intervento. Sì, lascio adesso a voi. No, più che altro lascio a Pierluigi, ma adesso no, più che altro sarà... Io sopravvalutato dipende che intendiamo. Nel no, senso è finito fino in nazionale, però non è che c'è andato per decreto. Sciglio è un eccellente giocatore. Ha avuto negli ultimi 2 anni un arresto della sua crescita. Cioè, spesso succede con i giovani. Sì, spesso succede con i giovani. Sicuramente era un giocatore, sembrava qualche anno fa un giocatore diverso e poi non ha più trovato la stessa continuità. Quindi questo è indiscutibile, non è il migliore esterno del campionato, non è neanche il peggiore, per questo dico bisogna capire cosa intendiamo per sopravvalutato. Fa il suo, ha delle amnesie, l'altro giorno certamente è andato in grandissima difficoltà, non è ancora certamente un giocatore che fa la differenza in quel ruolo, perlomeno che ha la continuità per fare la differenza in quel ruolo. Quindi è chiaro che se il punto di partenza è avere giustamente l'ambizione di avere una squadra da titolo, non ci siamo. Per quanto riguarda in generale De Jong, sì, l'altro giorno sicuramente, per quanto soffriva il Milan nel secondo tempo con l'Atalanta, ci poteva essere questo bisogno di compattezza, di filtro davanti alla difesa. Altre volte invece il Milan, giocando più libero, penso alla partita con la Lazio, ha portato a casa il risultato. A me sembra la squadra ancora molto discontinua. Molto discontinua, poi da vedere anche come evolve il rapporto tra Berlusconi e Mihajlović, che è un altro punto cruciale. E poi c'è una Bonaventura dipendenza. Cioè, questo è un giocatore che, lo so, può sembrare paradosso, perché chiaramente, insomma, è un buon giocatore, ma non è Cristiano Ronaldo. Però in questo Milan mi sembra che sia il giocatore più importante. Barometro. L'altro giorno mancato e si è sentito tanto. Ciao Pierino, buon lavoro per stasera con Tiki Taka. Sì, sì. Grazie, Tony. Tonico, mi raccomando. Grazie per oggi, parlo Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato non, è lì in regia, ma non ha fatto la regia lui perché l'ha fatta Paolo Corleoni, e Giovanni Melchioni in redazione. Ragazzi, ci vediamo questa sera, Gazzetta TV, Lo Spogliatoio, ore 21. Ciao. Ciao Luigi, ciao per Luigi, ciao a tutti e due.